Peggio, fermatevi, Gemilio, Manlio, Scoso, Germano. Servia Calantana. Apri a calseno dell'amato consorte tuo e verga il ferro. Tendi nel mio che pur suo sangue la forte destra. Manlio, e tu contro il fratello fiero t'avventi? E questa la feca mi tu desti? Cade pugnar d'acciaro e scivolò la mano. Ad allarmi sotterra e di Meneo la duplica da face sia caduceo di pace. Per serviglia il cor mio mi componda del modo il cieco Dio. Servilia, di vitelli al caso estremo, la contesa rinunzio, e ai suoi bei uvi tutta dono la fisa e la vendetta. Vattene a Tito, e di che della figlia, se fra lampade sacre stringo la bianca mano, consolati non certo, e son romano.